Sono Gianfranco Fini. Alleanza Nazionale vuole un sistema politico bipolare, con una destra e una sinistra. Ma quando si è sulla strada, quando si parla di sicurezza, non c'è né destra né sinistra. La sicurezza è un bene di tutti. Ricordalo quando guidi la tua auto, rispetta le regole, rispetta te stesso, rispetta gli altri. Campagna a cura del Governo. Ministero dei Trasporti.